Ehi. Ed eccoci tornati su Radio ZM, sono le 19.01. Siamo in ritardo di un minuto, perché ritardati da tutta la vita. Esatto, però ci proviamo a mantenere sulla baracca e diciamo che in questi giorni sta riuscendo, perché non abbiamo più crolli, funziona tutto abbastanza bene, a parte, vabbè, qualche... Siamo tra l'altro già alla seconda puntata di Cortocircuito, quindi direi che c'è già il fatto che siamo di nuovo qua la seconda volta e non abbiamo paccato come un sacco di impegni che siamo presi nella vita, direi che è fantastica come cosa. Chinese Burn, Curve come sigla, ma perché questa sigla? Perché mi arrapa. Guarda, è una sigla che onestamente ho trovato in una compilation, una cassetta trovata a casissimo in giro nella mia, ormai direi, infanzia, preadolescenza, chissà, e non mi ricordo assolutamente dove cavolo era questa cassetta né che cosa fosse. Ho trovato questa roba, c'era addirittura il titolo, mi è piaciuta tanto, me la sono ricordata negli anni, e quando poi ho avuto la possibilità di scaricarla agli albori di quello che una volta era i Mule. Madonna, i Mule. l'ho scaricata. Me lo ricordo bene. Mi piace molto, non so perché, forse perché ho poche idee. Questa canzone ce l'ho in mente da anni. L'ho scelta come sigla. E insomma, è una bella canzone breakbeat che dà l'idea della musica elettronica, anche se oggi non vi buttiamo la breakbeat, ma vi pettiniamo con un bel po' di sana e poderosa techno. Anche a chi non ha i capelli, non vi preoccupate. Esatto, io me li sono tagliati apposta per poi non dovermeli ripettinare. Vi diamo un piccolo assaggio di che cosa andremo a sentire oggi con una bella traccia techno di Minimum Syndicate, Edge Trojan numero 2. We'll be right back. pezzone. Yeah. Che trattore che è uscito dalla radio. Sì, un bel feedback. Questo è il cortocircuito che fa un effetto molto particolare a Radio ZM e di questo la ringraziamo perché fa veramente cortocircuito. Bentornati, bentornate. Bentornati a tutti. E purtroppo questi sono gli effetti che capitano quando mettiamo le tracce belle e Lorenzo dice alza, alza che voglio sentirla esatto. bene. Poi esatto, quando rimettiamo esatto. i microfoni. Perché non ci siamo ancora muniti di cuffie, ma lo faremo o forse no, perché in realtà c'è un progetto. Ultimamente ci muniamo solo di mascherine. Esatto, quindi, c'è un progetto cuffie. In cantiere, quando le cose andranno meglio sicuramente, ora Sushi mi uccide, metteremo in filo di fusione tutta la radio. Fantastico, non importa da dove... Dove sei, ci sarà feedback ovunque. Ovunque, esatto. Cortocircuiti ovunque, quindi grazie per l'ascolto. Questo era... Scusami? La traccia che è passata ora. Ah, era Acid Trojan numero 2 di Minimum Syndicate. Bene, me la son segnata, mi piace un sacco, la metterò come sveglia. E non sto scherzando, fantastico. Perché a me la techno piace. Se vuoi ti chiamo io tutti i giorni. Esatto. Considerato che sei al piano di sopra rispetto a me, posso direttamente mettere le casse nel balcone e fartela sentire direttamente dalla camera da letto. Madonna, sarebbe un sogno. Ho sempre cercato un vicino che facesse questa cosa, invece lo facevo io e i miei sarebbe vicini. Il sogno del mio vicino di sopra e l'incubo dei miei vicini di sotto. Esatto. Quindi veniamoci incontro e ascoltate Cortocircuito perché è una giusta mediazione. In realtà, tra il rompere le palle al vicino e l'adorare la tecno, in mezzo c'è Cortocircuito. Esatto. Cosa vi regaliamo oggi? Cosa c'è oggi, sul menu? Oggi vi regaliamo uno stupendo set del mio socio Blame01. Cosa dire di lui? Beh, innanzitutto Blame, che di vero nome fa Mattia, detto The Original, l'originale da anni sulla scena. Produce musica elettronica dal 2009, da un sacco di anni siamo come crew, cioè è come in una crew che si chiama Brazotech e come Circuit Gang è da un sacco di anni sulla scena, nelle feste, nelle serate, ovunque. A spingere buona techno. Blame ha sempre prodotto musica elettronica, dalla techno alla hardcore, un vero appassionato di Frenchcore come il sottoscritto. Abbiamo fatto più volte a gara chi lasciava più neuroni davanti ai muri di casse. C'erano dei bei tempi. Direi bei tempi andati, perché ormai è raro trovare chi spinge buona French, soprattutto alle feste. Ma vediamo, magari vero. Riusciremo a spingerla anche in radio, un po' di buona Frenchcore. E magari sarà la volta che Blame ci viene a trovare a metterne un po'. Ma non è questa volta, perché Blame questa volta ci porta un bel DJ set industrial techno. Wow. Sì, perché dal 2014 Blame è diventato Blame01 e produce industrial techno dapprima per la crew Industrial Techno United e poi per varie etichette indipendenti in giro per l'Europa. E appunto in giro per l'Europa viene spesso chiamato a suonare, a portare le martellate che lo contraddistinguono e che sentirete anche adesso, saranno belle sdenghe. Come penso avete visto in qualche video, c'è chi produce la musica industrial techno campionando direttamente le pentole, le teglie, lastre di ferro su cui sbatte corpi contundenti. Confermo. Io vi dico, lui non fa così, ma il risultato è più o meno lo stesso. Sono delle belle, belle cartelle. Quindi direi di goderci questo podcast, questo fantastico set di Blame01. E grazie. Ci sentiamo tra poco. Rimanete sintonizzati. Cortocircuito per voi, Blame01. Yo. c'è qualcuno che batte, sui tubi in fondo al tunnel. È Blame01 e questo è Cortocircuito, Radio ZAM. We'll be right back. Lo state sentendo come cartella Blame 01. Piace? Siete ancora su Radio ZAM, questo è Cortocircuito. Questo è il meraviglioso set di Blame 01. il turno in fabbrica non è ancora finito. Anzi. Porno industriale, ragazzi. Assolutamente, stiamo proprio tutti contenti qua, eh. We'll be right back. santo cielo, che cartelle. Beh, devo dire che questa visita dal parrucchiere ha avuto molto senso. E sia io che Sushi abbiamo cambiato pettinatura. Madonna. Adesso i miei sono blu e i suoi rossi. Non vi dico la lunghezza perché lasciamo perdere. Insomma, anche per i pelati cortocircuito ha senso. Ricordiamo che verrete spettinati a prescindere. Ma a me sto set mi ha rivoltato come un carzino. Cioè più che capelli, cioè i peli del culo attaccati alla testa adesso. Poi e, io, cioè, e il culo rasato. Un'ora, un'ora, io non ho sentito niente, non me ne sono neanche accorto. Mi sembra che l'abbiamo attaccato 5 minuti fa. Eppure e ogni volta è un fantastico viaggione. Sappiate che tutta la musica che passa su cortocircuito verrà inserita, oltre ad essere bellissima, verrà inserita in database. Quindi è probabile che anche alle 9:30 della mattina, durante la musica a rotazione, esatto, capiti Blame sì. 01 che vi sì. sveglia con del bel una bella, diciamo, industrial tech, metallo pesante, insomma. Mentre siete là che dico vabbè, adesso mi faccio un caffè, doce, sì. mi faccio un caffè, una cosa tranquilla. Magari i ragazzi mettono del jazz. Esatto. e trovi magari la canzone jazz che ti piace, ma rapidamente sfuma e inizia subito il punchica punchica punchica punchica e la giornata cambia. La vi giornata assicuro cambia che la giornata tanto, cambia. Così. Bene, dopo questa scorpacciata io direi di passare alla seconda parte. Lo possiamo rimettere? Ce lo risentiamo? Ma assolutamente sì, pronti per play. Comunque vi ricordiamo i nostri canali, che sono la pagina Facebook per scriverci commenti memorabili, insulti e tanto altro, la pagina Telegram per ricevere commenti memorabili ma non insulti, perché noi non lo facciamo se non in diretta. Ah, perché credevo che Telegram avesse tipo un filtro, una roba che sai, no, assolutamente. Ma poi Telegram funziona che noi comunichiamo col pubblico, informiamo su tutto il palinsesto, ricordiamo che ci sono i bellissimi podcast, e quelli a cui sono più affezionato sono questi qua, perché rimangono proprio delle chicche uniche, perché si associano dei set degli altri. Invece molto spesso i podcast singoli sono il set, quindi in questo caso Blame01 magari avrà già pubblicato o pubblicherà questo qua da solo, mentre invece cortocircuito tende a collegare più set insieme. Infatti oggi ne abbiamo un altro. Esatto, esatto. Comunque, cioè, lasciami dire qualcosa, siete veramente veramente troppo social voi di Radio ZM, siete veramente troppo bravi. Io a malapena riesco a alzare la tapparella la mattina per vedere il vicino davanti. Noi la alziamo e salutiamo via Facebook, Telegram, Instagram. Facciamo tutte queste belle cose. Ma esatto. Perché? Perché fondamentalmente non amiamo molto i social. Però abbiamo capito che in questo momento particolare, ma anche in altri momenti, servono comunque a passarsi le cose. Quindi noi vogliamo passare, vogliamo ricevere. Insomma, siamo un po' presenti dappertutto. Poi la radio è uno strumento fantastico, può arrivare ovunque. L'archivio ancora di più. Il podcast è la forma finale che la radio prende, secondo me, perché è molto fruibile, può essere inviato a tutti e tutte. Con la migrazione che abbiamo fatto su Archive può essere addirittura scaricato, quindi c'è la possibilità in Creative Commons di portarsi a casa il contenuto e mandarlo su altre radio, per esempio come podcast, cosa che facciamo con Nuno di Meno, che salutiamo, che sono adesso in diretta, per esempio. Bene, sì, esatto. Salutiamo Nuno di Meno. Esatto. Bella storia. Quindi, vi andiamo al secondo. Con un bel set del mio socio Sbume. Signore e signori, arriviamo. Sbume e il Tecno Terrone. Ciao Sbume. We'll be right back. We'll be right back. Und jetzt? Es tut mir leid. Zeigen Sie mir Ihre Brüste. Ich muss Ihre Brüste sehen. Ich habe nicht ganz verstanden. Ich habe das alles eingefädelt, um Sie in die Falle zu locken. Aber ich werde die... Sogar. Schlampe! Sehen Sie sich doch mal die ganzen untrainierten Faulenzer an. Heben sollten Sie sich und dann trainieren und sich einen Job suchen. So einem kleinen Schäfchen tut doch niemand was zuleide, oder? Ist es. Ist das. Ist es. Radio ZM ancora qui con Corto Circuito, pronta per spettinarvi un sacco.

maschera ci faceva cantare, ma io non riuscivo perché non capivo le parole. Attenzione, che belle attenzione, cose. Non sto capendo più niente. Anche la traccia finale con cui ci ha lasciato, devo dire che era una bella chicchettina. Suggestiva, eh? Suggestiva. Anche quella precedente, mica bel male. Giro in fabbrica anche lui. Assolutamente. Anche quindi non la chiudiamo la fabbrica, la mettiamo in stand-by perché in teoria venerdì prossimo cortocircuito torna. Esatto, la fabbrica torna e come dice appunto la fabbrica, per fare una cheat, roba bella, roba buona, e soprattutto ci sarà tanta bella musica, ancora tanta techno, molte sorprese, ancora non vi dico chi metterò, di chi sarà il set ospite, né chi farà il set di noi della Circuit Gang. Sarà tutta una sorpresa e quindi seguiteci ancora il prossimo venerdì alle 19 su Radio ZM. E per stasera è tutto, ora aiuto Sushi a mettere un po' di musica a rotazione, auto DJ. No, esattamente. No, zero auto DJ, adesso metto una bella canzone io, attenzione, giusto per lasciarvi. Attenzione. Mi raccomando ragazzi, non vi perdete la prossima puntata. Dove vuoi andare? Io voglio andare sulla mia cazzo di chiavetta. Allora vai su cartella. È vero che abbiamo due schermi. Esattamente. No, quello è un terminale. Fantastico. Ma cartella è la seconda, da sinistra. È la forma di una cartella. Quello è un testo. Quella è una cartella. No, questa cosa mai. Questa è la ha un tempo di attesa di mezzo secondo. Devi dargli il suo tempo al computer. La quantità di cartelle che apre quando clicchi è incredibile. Sono io che sono abituato a girare le manopole, a muovere i fader, e quindi non riesco a fantastico. Bene, quindi ho deciso di salutarvi con questa fantastica canzone.